I promised you the great secret, and I will not disappoint you. Is this the end of our adventure? Nothing has an end. We came in search of the secret of immortality, to be like gods. And here we are, mortals, more human than ever. If we have not obtained immortality, at least we have obtained reality. We began in a fairy tale, and we came to life. But is this life reality? No. It is a film. Thank you. Per caso cerchi me, o mio altro io. Cerchi il tuo ricordo che è presso di me. Forse che come specchi moltiplichiamo. All'infinito, immagine dopo immagine. Oggi è un nuovo giorno che ancora perderò nel labirinto. Guardo dentro il perimetro una costruzione sfatta dai secoli.